Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 21 dicembre, ultima puntata della stagione per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi insieme a voi proverò a ripercorrere le tappe che hanno segnato i principali sviluppi e processi del 2024 nel mondo, e lo facciamo a partire dalle elezioni che a gennaio hanno riconfermato alla guida di Taiwan il Partito Progressista Democratico e che hanno incoronato Lai Ching-te presidente del paese. In aprile abbiamo assistito alla recrudescenza, a un'intensificazione della crisi in Medio Oriente dovuta all'intervento di Teheran con il lancio di droni e missili sul territorio israeliano, passaggio che ha determinato un'intensificazione del conflitto che poi a maggio ha visto Israele protagonista dell'ennesima offensiva militare su Gaza, questa volta avendo come obiettivo la città meridionale di Rafah. A coronamento della recrudescenza dello scontro tra Iran e Israele, alla fine di luglio del 2024, il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, viene ucciso da un attentato non rivendicato, ma da molti naturalmente attribuito a Israele, è avvenuto nel quartiere diplomatico della capitale iraniana, Teheran. A giugno, il 25, Julian Assange è stato liberato dopo molti anni di prigionia ed è potuto tornare in Australia. Il 13 luglio Trump viene ferito durante un comizio per la campagna per le elezioni presidenziali in Pennsylvania. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e sicuramente le ricorderete in molti. Evento che poi, a quanto è stato detto, insomma, ha determinato anche un sostanziale aumento dei consensi per l'allora candidato repubblicano Trump. 5 agosto in Bangladesh la 5 volte prima ministra Sheikh Hasina fugge dal paese dopo un periodo di forte instabilità, manifestazioni, mobilitazioni e grandi proteste contro Sheikh Hasina e contro le politiche governative. Il 6 agosto Kamala Harris sostituisce Joe Biden e diventa la candidata ufficiale dei democratici alla Casa Bianca. Questi fatti accaduti durante i primi 9 mesi dell'anno. Per i restanti 3 abbiamo provato a dire la nostra con Bologna e dintorni, ma per parlare degli ultimi mesi dell'anno vi chiedo di rimanere sintonizzati e ci risentiamo tra pochi minuti dopo una breve pausa musicale. The world is a vampire. We'll be right back. lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a Bullet with Butterfly Wings. Questi erano gli Smashing Pumpkins. Bentornate e bentornati in questa rassegna di fatti e accadimenti dal mondo negli ultimi mesi del anno che si sta per chiudere. Iniziamo con uno sguardo sull'Italia, perché il nostro paese, come ricorderete, in questo autunno è stato protagonista di una delle mosse più controverse in tema di politiche migratorie, e ci riferiamo naturalmente alla inaugurazione dei due centri di detenzione ed espulsione in Albania, argomento tanto più centrale in queste ore in cui è intervenuta l'assoluzione del ministro dei trasporti Salvini per i fatti legati al sequestro della Open Arms. È chiaro che il razzismo istituzionale era una realtà anche prima della guerra, anche prima di questo governo di destra, ma è vero che lo scenario di guerra ha reso il controllo del movimento dei migranti e del lavoro dei migranti un tema su cui si sono sperimentate nuove forme di autoritarismo, nuove forme di coazione, le si è scaricate sugli uomini e sulle donne migranti. Questo a volte è avvenuto molto chiaramente, sotto i riflettori, con tutta una retorica razzista che conosciamo bene. Altre volte è stato un attacco meno plateale, lo hanno vissuto i migranti e le migranti sulla loro pelle. E se dovessi trovare un filo rosso, sarebbe sicuramente il tentativo di imporre ai migranti una specie di alternativa tra la morte in mare e lo sfruttamento e il ricatto che invece li aspetta se riescono ad arrivare in Italia. Quelli che arrivano qui non, per questo governo non devono nemmeno poter pensare di potersi costruire una vita. E restiamo in Italia, perché a fine ottobre un rapporto pubblicato dal Consiglio d'Europa ha scatenato più di qualche polemica e di dibattito all'interno delle istituzioni e delle forze politiche italiane per aver descritto le forze di polizia italiane in termini non proprio lusinghieri e per aver messo in evidenza come omofobia e razzismo siano elementi costanti della condotta delle forze dell'ordine italiane. Si parla in particolare della esistenza del fenomeno della profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, in particolare verso Rom e verso persone di origine africana. Si critica il fatto che non vengano raccolti dei dati disaggregati sull'attività di fermo e di controllo della polizia, e infatti questo è proprio quello che sottolinea questo rapporto. Sottolineando questo, fa una richiesta all'Italia, cioè di sottoporre le pratiche di fermo e di controllo a un esame indipendente, quindi invita, in qualche maniera io direi, a permettere questo tipo di indagine. E sempre alla fine di ottobre il maltempo ha causato ingentissimi danni in Italia, in particolare in Emilia-Romagna e nella città di Bologna. Ancora una volta manifestazione di cambiamento climatico che, unita al dissesto idrogeologico e al consumo di suolo, hanno causato il dramma, la tragedia di cui molti di noi ricorderanno. Tra l'altro, segno premonitore piuttosto inquietante di quanto qualche giorno dopo sarebbe successo nella città spagnola di Valencia, dove i danni e le vittime sono stati persino peggiori. Dovremmo abituarci ad avere periodi di siccità, ondate di calore alternati a grandi piogge, grandi precipitazioni come abbiamo visto. Questo è il frutto ovviamente della crisi climatica, del riscaldamento globale, e non c'è nessuna novità in questo. I climatologi ci dicono da anni, se non da decenni, che questi erano gli scenari a cui andavamo incontro. L'unica cosa che non avevano previsto era stata, diciamo, la rapidità con cui questi scenari sarebbero diventati concreti. E in tutto ciò noi viviamo un territorio, l'Emilia Romagna, che è inserita poi in un contesto più ampio, e in particolare il Mediterraneo, che viene riconosciuto come un hotspot della crisi climatica, ovvero un luogo, uno spazio nel pianeta in cui i fenomeni legati al riscaldamento globale sono più intensi e sono più evidenti, in qualche maniera anticipano i trend planetari. Quali sono state le scelte adottate per contrastare gli effetti? E finora ce ne sono state ben poche. Abbiamo visto fallire tutte le politiche internazionali legate alla questione della crisi climatica. E veniamo allo scontro in Medio Oriente, la guerra tra Israele e Palestina, l'assalto israeliano alla striscia di Gaza non ha fatto sconti negli ultimi mesi del 2024. Al 10 dicembre si contano 47.000 vittime in totale nel quadro del conflitto, di cui 1.700 israeliane e 45.000 palestinesi. In questi mesi, lo abbiamo visto, sono stati coinvolti all'interno del conflitto altri attori regionali, pensiamo per esempio Hezbollah, la milizia, la forza sciita libanese, il cui leader Nasrallah è stato ucciso in Libano proprio da un raid guidato da Israele, poi naturalmente anche all'Iran di cui abbiamo già parlato. Il 21 novembre è stato spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro alla difesa di Israele Yoav Gallant. A essere coinvolto nel mandato di arresto è anche il capo militare di Hamas, Mohammed Deif. Quello che accade a Gaza ha delle ripercussioni anche alle nostre latitudini. Quello che sappiamo tramite diversi reporti, il movimento di carburante militare che c'è ormai da quasi più di 10 anni dall'America al porto di Ashkelon in Israele. In particolare sappiamo tramite questo rapporto che ci sono diverse navi petroliere che tramite dei contratti specifici portano una quantità importante di carburante militare che va sotto il nome di JP8 da Corpus Christi in Texas fino a Ashkelon, passando per il Mediterraneo. Passando per il Mediterraneo, gran parte di questo petrolio viene poi lavorato nei vari porti del Mediterraneo, si ferma, sappiamo, a Gibilterra, si ferma molto spesso purtroppo in Italia, nei porti di Livorno, Taranto, Milazzo. Altro aspetto di rilievo è quello del grande sostegno internazionale a fianco del popolo palestinese, sostegno che è cresciuto in questo anno, in questi mesi, e che ha visto crescere parallelamente anche la repressione e i tentativi di soffocamento di libertà della propria espressione da parte delle autorità nazionali in molti paesi occidentali. Abbiamo assistito appunto a livello globale, come anticipavi tu, a due fenomeni particolari. Uno, l'intervento appunto massiccio di persone, studenti, attivisti che in qualche modo sin dall'immediatezza dei fatti hanno provato ad evidenziare e a sostenere il popolo palestinese, però dall'altro lato, di fronte alla costruzione di forme di sostegno, di lotta e di solidarietà verso l'attacco israeliano e al genocidio che poi ne è conseguito, abbiamo assistito allo stesso tempo a livello globale a massicce forme di repressione, mi verrebbe di dire, che si sono, diciamo, sviluppate sotto due profili differenti. L'una è una forma di repressione della libertà di espressione stessa, dall'altra una forma di repressione della libertà di movimento e di contestazione. Restiamo in Medio Oriente perché di questi giorni la notizia della fine, del crollo del regime di Bashar al-Assad in Siria. La maggior parte degli osservatori non si aspettava tendenzialmente una incapacità, o meglio anche non volontà, di ostacolare e combattere le forze ribelli che da nord e poi da sud sono intervenute contro le forze dell'esercito siriano nelle loro molteplici espressioni. Che le forze del nord volessero e fossero nei preparativi di un'offensiva si sapeva da un po' di tempo. Che il paese poi si fosse governo un po' isolato dal punto di vista regionale, questa era anche un po' nella cronaca degli ultimi mesi, però l'elemento che poi anche gli stessi grandi alleati, gli strategici alleati della Siria, del governo come l'Iran e la Russia fossero da un lato, in altre faccende affaccendati come la Russia nell'Ucraina che assorbe tutte le forze russe e l'Iran un po' costretto, diciamo, a un confronto militare diretto con Israele e a subirne anche questa superiorità militare ed intelligence, insomma, erano elementi che si sapevano. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti perché le elezioni per il rinnovo della presidenza sono state anche comprensibilmente da molti considerate l'evento politico più importante dell'anno. L'esito lo conoscete tutti: Trump ha vinto, Kamala Harris ha perso. Difficile comprendere se la notizia vera è quella della vittoria schiacciante di Donald Trump o della cocente disfatta dei democratici e di Kamala Harris. Eravamo partiti che i candidati erano altri, cioè eravamo partiti che la corsa sarebbe dovuta essere Donald Trump contro Joe Biden. Invece poi, a sorpresa, a 2 mesi e mezzo circa dalle elezioni, cambio di programma e Biden non è più il candidato. Chi è il candidato? Kamala Harris, la sua vice. Una delle critiche che gli è stata mossa di più è stata che non è stata chiara sul suo programma, troppa continuità con Joe Biden, mentre Donald Trump è Donald Trump, quindi non c'era molto da dover pubblicizzare. Si sa cosa pensa e si sa che tipo è. Nonostante tutti i processi, il primo ex presidente condannato, comunque la rivolta del 6 gennaio che probabilmente è stata fomentata dalle sue parole, nonostante tutto questo ha fatto sì che Trump prendesse più voti rispetto al 2020, sono già 1 milione e rotti in più rispetto alle scorse elezioni. Ci spostiamo adesso a est. A febbraio la guerra tra Russia e Ucraina compirà 3 anni, in queste ore il presidente ucraino Zelensky si sarebbe detto pronto a rinunciare a causa dell'impossibilità di riguadagnare il controllo su queste province, al Donbass, alla Crimea, sotto controllo russo da diverso tempo, ma a est succede anche altro, in particolare nel Caucaso, in Georgia. Dopo le elezioni presidenziali e la vittoria del partito Sogno Georgiano, si sono susseguite manifestazioni di protesta contro il governo, come era stato peraltro paventato da molti osservatori, e in Romania a novembre la Corte Costituzionale romena ha annullato le elezioni presidenziali vinte dal candidato ultraconservatore Georgescu per interferenze esterne, e per interferenze esterne si intende per il tentativo russo di destabilizzare e influenzare i processi elettorali del paese. In questi mesi si sono però ottenute anche altre elezioni. Mi riferisco in particolare alle presidenziali in Moldova e alle elezioni per il rinnovo del Parlamento in Uzbekistan. In tutti questi casi un elemento è costante, ovvero quello del rapporto con un vicino molto ingombrante che è la Russia. Diciamo che nel voto moldavo ha influito molto il voto della diaspora, ha comunque vinto e la presidentessa è stata rinnovata Maia Sandu. Diciamo che il referendum per entrare in Europa ha vinto il sì. In Uzbekistan diciamo che è un universo diverso, è un universo in cui non c'è l'opposizione e ci sono questi partiti che sono tutti coalizzati. Per la prima volta si è visto il 40% di donne eleggibili nei vari partiti della coalizione. Restiamo a est e andiamo ancora più a est. 47 persone sono state condannate a Hong Kong in quello che è stato definito il più grande processo della storia della città per reati connessi alla sicurezza nazionale. Questa legge sulla sicurezza nazionale è una legge che si occupa di determinare tutta una serie di crimini. Quello che è successo è stato che questi 47 imputati volevano tutti candidarsi alle elezioni che ci sarebbero dovute essere nel 2021, che non ci sono state. Quello che avevano fatto i 47 era cercare di ottenere un numero sufficiente di loro rappresentanti in questo consiglio legislativo per poter bloccare alcune proposte governative. Il motivo per il quale loro sono finiti imputati per aver attentato alla sicurezza nazionale è perché è stato determinato dal governo che il tentativo di vincere le elezioni per fare l'opposizione è una cospirazione per sovversione. E il 3 dicembre è notte in Italia, quando il presidente sudcoreano conservatore Yoon, con un gesto inatteso e assolutamente imprevedibile, proclama la legge marziale in un paese che la legge marziale l'ha vissuta veramente fino alla fine degli anni Ottanta. Subito dopo il presidente, nonostante la legge non verrà mai approvata dal Parlamento del paese, verrà sottoposto a procedura di impeachment che in una prima battuta non passerà al Parlamento sudcoreano e che sarà definitivamente approvata il 14 dicembre. Allora, la mossa del presidente Yoon può essere letta sia come una scommessa politica mal calcolata, sia come atto scellerato di un leader politico che si trovava in una situazione estremamente difficile. Già da molti mesi la situazione politica del presidente Yoon era di grande difficoltà, la sua popolarità all'interno del paese era decisamente in declino, con dei tassi di popolarità che si aggiravano attorno al 20%. Allo stesso tempo si doveva confrontare con un'assemblea nazionale, quindi con un Parlamento che aveva una forte maggioranza progressista, quindi del partito dell'opposizione, e anche all'interno dello stesso partito conservatore, quello a cui fa capo Yoon, c'era un forte malcontento nei confronti dell'azione del presidente. Date tutte queste premesse, è chiaro che la decisione di Yoon sia stata appunto un'azione estrema, molto radicale, per cercare di consolidare in qualche modo, e quello che forse lui ha visto come l'unico modo possibile a questo punto, per quindi consolidare la propria posizione politica all'interno del paese e al governo del paese soprattutto. Ci spostiamo in Cina, perché tra le tante cose per cui il paese oggi è al centro delle cronache internazionali ci sono anche le condizioni e i diritti delle donne, che nel paese sono oggi al centro di un processo piuttosto rilevante. Come da altre parti del mondo, però, privilegi e contraddizioni di un sistema patriarcale sono duri a morire anche nel paese asiatico. Rimangono alcune questioni aperte attualmente per alcuni aspetti che riguardano i diritti riproduttivi. Sappiamo che per tanti anni in Cina si è praticata la politica del figlio unico, legata alla politica di pianificazione delle nascite, e attualmente si assiste a un cambiamento da questo punto di vista che mette in qualche modo in discussione anche nuovamente e in un altro modo i diritti riproduttivi. Esistono ancora delle problematiche legate ad aspetti lavorativi, penso alla minore partecipazione delle donne per quanto riguarda i vertici manageriali, ad esempio, alcuni problemi legati ancora al gap salariale tra uomini e donne, che sono poi problemi che non sono solo della Cina, se vogliamo dirlo. Alcuni elementi ancora legati alle difficoltà in ambito familiare, che sono magari anche quelle legate alla violenza domestica. Poi ci sono stati alcuni passaggi importanti, come l'inclusione delle molestie sessuali all'interno del codice civile. Ci sono stati tutta una serie di passaggi ed evoluzioni per quanto riguarda il diritto. Sicuramente queste problematiche che ti ho accennato sono quelle attualmente di cui si discute. Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza che non ha nulla di celebrativo e che in questi anni si è trasformata in una potente occasione di manifestazione, di rivendicazione da parte delle donne. I movimenti femministi in questi anni sono stati protagonisti di una fortissima e importantissima battaglia politica transnazionale. Nell'ultimo paio d'anni possiamo dire che una delle grandi urgenze con cui il movimento femminista si è dovuto confrontare è assolutamente quello della guerra. Questo messaggio del movimento femminista contro la guerra è anche quello che caratterizzerà il 25 novembre dappertutto. Le donne stanno resistendo, come in Palestina contro le bombe israeliane, ma anche contro una violenza maschile che esisteva da prima, e stanno resistendo in Ucraina aiutando i disertori a scappare dal reclutamento. E a pochi giorni dalla sentenza di condanna che in Francia ha comminato una pena di 20 anni a un uomo che ha sottoposto la moglie a numerosi anni di stupro condivisi anche con altri uomini. Parliamo naturalmente del caso di Gisèle Pelicot. Ebbene, noi con la dignità e la forza di Gisèle Pelicot ci auguriamo di chiudere l'anno che sta terminando e di imbarcarci in quello che verrà. Prima di chiudere però vi ricordo che c'è ancora tempo fino al 6 gennaio per poter sostenere Radio Città Fujiko aderendo alla campagna Una Radio Incontenibile. Come sempre tutte le informazioni le trovate su www.radiocittafucico.it/abbonamenti. A me non resta che augurarvi buone feste, buone ferie, buone vacanze e a risentirci nel 2025 sempre su Radio Città Fucico. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood running. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lesser bands, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but nap, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine.